la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, 16:30, primi 10 secondi in diretta da Milano. Vi saluta Oscar Giannino, vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast la versione di Oscar. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @24.it, e va subito l'argomento del giorno per dirvi, se volete intervenire, il numero di telefono 800 24 00 24, l'opinione 349 238 6666. Cercheremo di approfondire, di spiegare in dettaglio molti degli interrogativi che gravano, dei problemi che vengono toccati, per la novità che è avvenuta nel corso del fine settimana, cioè ieri, del pacchetto di misure in legge di stabilità, che stanno però nel decreto legge a parte, cioè quelle che riguardano le novità fiscali, per così dire, cioè tutta la questione che riguarda Equitalia e la rottamazione delle cartelle, la voluntary disclosure. Lo faremo naturalmente con un esperto, col professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Sentiremo poi nel corso della trasmissione anche il responsabile finanza locale dell'ANCI, Guido Castelli, per capire se l'ANCI, cioè i comuni italiani, hanno a propria volta capito come funzionerà la rottamazione dei ruoli per i comuni, e sono alcune migliaia, che nel frattempo, consentendo una legge approvata sotto il governo Monti, loro di optare per una riscossione non affidata a Equitalia ma con società proprie e diverse, se sarà chiaro che possono partecipare alla rottamazione delle cartelle per la propria parte che le riguarda come enti impositori oppure no. Ecco, io prima di iniziare a porre alcuni interrogativi mi limito a sottolinearvi alcune questioni. La prima, questa è la mia personalissima opinione, mentre stiamo aspettando che, dicono, alle 17:30 dovrebbe uscire il testo delle richieste della Commissione europea al governo italiano sulla legge di bilancio, mercati chiusi, vedremo, insomma, nell'arco della serata dovrebbero uscire queste osservazioni all'Italia e ad alcuni altri paesi nei confronti delle cui manovre anticipate dai documenti di programmazione del bilancio la Commissione europea ha dei rilievi da fare, vedremo. Però in assenza di questo, intanto sottolineiamo alcune questioni. Nella settimana intercorsa dal varo della legge di stabilità senza testi al testo del decreto che è arrivato ieri per la parte fiscale, intanto, punto da sottolineare, evidentemente il Quirinale ha fatto in modo che 6 miliardi di coperture ballerine che due sabati fa erano state affidate alla somma delle entrate stimate in 4 miliardi aggiuntivi dalla rottamazione delle cartelle, quindi Equitalia, e 2 miliardi della voluntary disclosure, si sono ridotti a meno di 2 miliardi. Quindi evidentemente chi ha criticato quorum ego sulla possibilità di considerare coperture per spesa corrente stabile e pluriennale poste del tutto ipotetiche e stimate su misure per di più one off, cioè una tantum, ha prevalso anche agli occhi del Quirinale. Quindi intanto questa cosa positiva. Secondo, c'è una risposta ordinamentale alla forma che Equitalia prende entrando nell'Agenzia delle Entrate, diventa un ente pubblico economico, diventa un ente pubblico economico con un interim, per così dire, di commissariamento che dovrebbe durare fino al prossimo luglio. Poi, siccome sappiamo che è in scadenza anche il vertice dell'Agenzia delle Entrate, vedremo se il presidente attuale Ruffini e poi commissario dall'inizio dell'anno dell'ente economico Equitalia, a quel punto al 100% detenuto dall'Agenzia delle Entrate, che dovrà anche liquidare la quota INPS attuale di minoranza in Equitalia, diventerà poi, come alcuni pensano, anche la guida dell'Agenzia delle Entrate con Equitalia incorporata dentro oppure no. Non è ancora chiaro bene che cosa succederà invece in ordine al problema ordinamentale aperto sullo status contrattuale dei dipendenti. Vi abbiamo spiegato molte volte che quelli di Equitalia hanno un contratto di tipo privato di fonte bancaria rispetto a quelli dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha un problema che rimane irrisolto sul titolo con cui vengono nominati a tempo i suoi dirigenti dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ormai risalente a quasi 2 anni fa, e vedremo come questa cosa funziona. Si è aperto un problema ripeto, relativo a cosa succede in quei comuni, enti impositori che non erano in Equitalia, il termine consentito dal decreto per dichiarare se accedono alla forma di rottamazione da loro un termine di soli 30 giorni. Il testo ci consente di fare un pochino più di chiarezza su gli interessi, gli aggi, le mora che dovrebbero essere tagliati nell'arco temporale per accedere alla rottamazione dei ruoli in 4 rate, e c'è anche una risposta, va riconosciuto, a chi come me obiettava, ma questo è uno schiaffo a chi nel frattempo ha pagato gli interessi, nel senso che è consentito accedere alla rottamazione solo chi è in regola con le rate precedenti fino alla fine dell'anno, cioè fino all'entrata in vigore del decreto una volta convertito, ma resta la mia obiezione, e qui mi fermo, che è un'obiezione di fondo alla rottamazione delle cartelle, cioè se viene considerato, e io sono d'accordo, che la somma risultante di more, interessi legali e aggi di Equitalia, su cui pesano alcune, stanno crescendo di numero pronunzie anche di commissioni tributarie provinciali, secondo le quali l'aggio dovrebbe essere una partita che riguarda Equitalia e l'ente impositore per cui agisce, non dovrebbe essere girato al contribuente. Ma al di là di questo, se si considera che la somma con cui Equitalia ha svolto fino a qua il suo mestiere è una somma eccessiva, ladronesca, come dice Renzi andando in televisione ieri da Annunziata, allora la mia osservazione è che questi oneri, agi e interessi andrebbero tagliati in maniera permanente, per sempre. Quello che non mi convince è tagliarli a tempo, perché questa cosa del tagliarli a tempo ha due conseguenze. La prima, servono a far incassare lo Stato, ok? Cioè su cose con cui lo Stato non riuscirebbe, come si vede dalla sua difficoltà a riscuotere i ruoli, da una parte, e dall'altra, essendo a tempo, sono una, a mio giudizio, perdonate se sono chiaro, una estorsione di voto elettorale, per dire se volete che poi rimanga lo sgravio e l'agevolazione per sempre, sapete chi dovete votare. Io sono per interventi universali una volta per sempre, magari mi sbaglio. Allora, intanto però il professor Dario Stefanato lo ringrazio per essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi, buonasera. Da dove vogliamo partire una volta che abbiamo il testo del decreto alla mano? Magari dal punto di vista così ordinamentale, lei cosa ha capito in ordine allo status dei dipendenti? Sì, partirei anch'io da Equitalia per dire questo, il testo alla mano, diciamo. Qui mi sembra che le esigenze di marketing politico abbiano fatto fare delle scelte discutibili sul piano giuridico. Se si va a leggere la norma sulla soppressione di Equitalia, si vedono delle palesi contraddizioni. Provo a scioglierle, certo, in poche battute. Si capisce subito il messaggio che si vuole dare. Primo comma dell'articolo 1. A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte, quasi fosse uno scioglimento nell'acido. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Quindi abbiamo una norma di legge che interviene su una società di diritto privato per quanto partecipata dal pubblico. Quindi questo già è abbastanza strano, perché le leggi costituiscono ed estinguono enti pubblici, mentre le società per azioni si costituiscono e si estinguono per volontà delle assemblee. Ma qui invece è la legge che interviene. Però subito dopo la cosa che... E io qua mi sono fatto una domanda, la risposta è che probabilmente il messaggio che si voleva dare era se si fosse fatto come si doveva fare tecnicamente, cioè trasformare la SPA in un ente pubblico economico, fare una trasformazione eterogenea, si sarebbe detto ecco, Equitalia non è sparita, è stata solo trasformata, invece così si estingue. Solo che poco dopo si scopre, si apprende che ovviamente che succede di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e processuali di Equitalia, questi passano e vengono trasferiti all'Agenzia delle Entrate, cioè una cosa che fa fare un salto sulla sedia, c'è un ente che si estingue, non può trasferire nulla, cioè in quel momento muore e tutti i rapporti muoiono con esso. Però qui abbiamo già questa prima contraddizione. Poi c'è una seconda contraddizione che riguarda lo statuto del nuovo ente, perché da un lato si dice che questo risponderà ai criteri di trasparenza, di buon andamento, di imparzialità dell'amministrazione, del resto è un ente pubblico, quindi come tale entra a far parte di quel comparto. Ma subito dopo però si dice che adesso si applicano le norme del codice civile, e anche questo francamente non me lo spiego, o è un ente che sta nel pubblico o è un ente privato, quindi non capisco perché si debbano applicare congiuntamente le norme pubblicistiche e quelle privatistiche. Evidentemente penso che uno dei problemi più grossi sia quello dei dipendenti, e poi per i dipendenti si dice che questi passeranno salvo una verifica di compatibilità, un vaglio che però non è un concorso pubblico, e anche lì voglio vedere che cosa succederà. Le posso quindi... chiedere, questi punti elencati, che sono problemi dal punto di vista giuridico molto rilevanti, a sua primissima impressione, offrono il destro per impugnative, eccezioni di costituzionalità, sì o no? Ma sì, daranno luogo a una serie di problemi, cioè non riesco a capire come si facciano a convivere principi così diversi l'uno dall'altro, come si faccia a trasferire i rapporti giuridici di un ente che si è estinto. Francamente, ripeto, la strada maestra era o la fusione tra due enti, cioè previa al limite trasformazione di Equitalia, oppure semplicemente la trasformazione di Equitalia in ente pubblico economico. Invece avrei voluto dire che lo si cancella, lo si estingue, lo si toglie dalla faccia della terra, poi porta con sé queste conseguenze. Che a mio avviso, insomma, qualche problema temo che lo daranno. Sì, credo anch'io, però vedremo. Da questo punto di sbagliarmi. Non lo so se spero di sbagliarmi. Io vorrei naturalmente che fossero rispettati i criteri, i principi e anche la lettera dell'ordinamento. Quindi, a mia opinione, è una cosa in cui prevale troppo la necessità che appaia il verbo sciogliere, perché la trasposizione di obbligazioni, negozi giuridici, eccetera, eccetera, automatica allo scioglimento. Vediamo da questo punto di vista. Invece, andiamo alla questione di fondo che interessa a tutti i nostri ascoltatori. La definizione di che cosa tra virgolette cade sul totale degli oneri, interessi, agi eccetera eccetera nel periodo proposto al contribuente per la rottamazione dei ruoli, posto però che deve essere in regola con la rateazione precedente, consente davvero a oggi di fare una misura di ordine di grandezza oppure no? Cioè sulla potenzialità di gettito di questa misura? No, su quanto, diciamo così, è l'ammontare del risparmio? Io da quello che capisco, qui si parla di estinzione del debito senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Mi pare che resti fermo invece l'aggio dovuto all'agente della riscossione, e quindi indubbiamente sanzioni e interessi sono una parte rilevante delle somme iscritte a ruolo, quindi è un beneficio consistente rispetto ai totali iscritti. No, mi chiedo però una cosa, cioè che probabilmente questi sono molto simili, per fare un parallelismo, a dei non performing loans, cioè sono crediti tendenzialmente inesigibili, quindi è una scommessa mettere una cifra su quante persone avranno interesse e la possibilità stessa di pagare e la volontà di farlo, insomma, rispetto a debiti che risalgono fino all'anno 2000. Ma tra l'altro, mi perdoni, ma la mia osservazione è che c'è qualcosa che non mi torna. Se sono debiti inesigibili, a netto che spero naturalmente, questo è ovvio che non riguardano le società fallite, sparite, eccetera, eccetera, ma se sono crediti inesigibili, come può essere rispettata la norma secondo la quale l'accesso alla rottamazione solo a contribuenti in regola fino all'ultima rata di quest'anno? Non lo so, io questa cosa del contribuente in regola francamente... mi è sfuggita o non sono riuscito a coglierla nella veloce lettura. Attenzione, nel testo che ho io non c'è, ma è quello che hanno fatto scrivere a tutti i giornali le fonti del MEF. Io ho il testo del decreto, articolo 6, io questa norma non l'ho vista, ecco. Però può pure darsi che mi sia sfuggita. Ma se vi fosse non riuscirei a capire come può stare in piedi. No, ma infatti, io la troverei un po' strana se ci fosse. Esatto. Io non l'ho vista ad oggi. Quindi probabilmente, glielo diciamo ai nostri ascoltatori, quello che avete letto sui giornali su questo, lo dico, ma è una scusante per i colleghi, perché ovviamente sentono le fonti al Ministero, il Ministero ha pregato a tutti di dire che tutti... Per definizione, se sono somme iscritte a ruolo che risalgono fino a 15 anni fa, non vedo come possa essere relativa a contribuenti, diciamo, cioè, francamente. Pareva anche a me, però gliel'ho chiesto nel caso in cui mi fosse sfuggito, però non l'ha trovato neanche lei. Non l'ho trovato nemmeno io. Da questo punto di vista, il termine dei 30 giorni per i comuni per mettersi in regola, secondo lei, poi sentiremo l'ANCI, è un termine che in qualche misura fa i conti con una stima realistica dei tempi di interazione decisionali? Mi sembrano veramente pochi, conoscendo i meccanismi decisionali degli enti pubblici, non sono velocissimi, insomma, ma mi sembra poco effettivamente. Quindi questo è un meccanismo, però secondo me... andrà chiesto direttamente esatto, a loro, lo chiediamo a loro. Allora veniamo a un altro punto, perché Quirinale o meno, io credo di sì, è saltata anche rispetto agli annunci l'aliquota del 35. Una cosa sempre sul... mi chiedo però dove stessero, a parte in qualche provvedimento di chiamiamola così, di lotta all'evasione, dove stesse l'urgenza, la necessità e urgenza di indurre il decreto legge per una soppressione di un ente che avverrà a luglio 2017. Vabbè. si chiama 4 dicembre quell'esigenza, ma sono io il cattivo a dirlo, lei non può dirlo perché è un cattedratico e deve essere rigoroso, io faccio giornalista, l'esigenza è 4 dicembre, come si è capito dal tono con cui ieri all'ospedale Annunziata il premier ha detto cucù Equitalia non c'è più, e l'Annunziata, devo dire strappandomi un applauso, gli ha risposto non mi prenda per imbecille, scusi se mi permetto io di chiusare. Un'altra cosa che è sparita, Quirinale o non Quirinale, io dico Quirinale, posso sbagliare però, è la famosa aliquota di regolarizzazione per l'emersione del contante al 35%, che viene invece ricondotta, come era già nella Voluntary 1, alla Voluntary 2. Osservazioni? Beh sì, anche lì si trattava di una misura abbastanza poco comprensibile, cioè non si era capito se intendevano istituire una sorta di somma forfè su dei patrimoni, però legittimamente uno può detenere delle somme in contanti, non deve dichiarare, non è che sono somme detenute all'estero, per cui lì non si capiva. Oppure se era un forfè ma a valere su redditi evasi, allora sarebbe stato un condono, e probabilmente per entrambi questi motivi, cioè di un inquadramento molto ballerino, è stata tolta. Io l'ho letta così, mi chiedo se non siamo arrivati al punto in cui escano le slide, si guardino le reazioni dei commentatori e poi si decide che cosa approvare. Già, sì, credo anch'io che l'approvazione salvo coordinamento, che è la formula tecnica che si usa ormai per varare le finanziarie, questo salvo coordinamento è il coordinamento con gli istituti demoscopici più che con i componenti del governo. Io ricordo a tutti gli ascoltatori che quando nel 1994, e io sono l'ultimo che difende Berlusconi perché l'ho critico da anni, ma qua nel 1994 vinte le elezioni, arrivò la prima scadenza della legge finanziaria, si chiamava allora, non era legge di stabilità, che adesso è tornata a chiamarsi legge di bilancio, invece il Quirinale, di fronte al ritardo, fulminò il Presidente del Consiglio, e secondo me aveva ragione, al Quirinale c'era allora Scalfaro, che pretese nottetempo che il governo comunque entro la mattina successiva, nella notte, gli consegnasse il testo. Altri tempi, non sono cambiate le regole, però a quanto pare altri tempi. Allora, si è aggiunto con noi il Sindaco di Ascoli, responsabile della finanza locale dell'ANCI, Guido Castelli, che io intanto saluto e ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, ecco, allora, nella confusione, ma ci sono. Ricominciamo, sì, speriamo che voi ci possiate invece illuminare, almeno per la parte di ente impositore che è il comune, per vedere se rottamate o non rottamate anche voi, però tra un minuto, perché intanto abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.49 per illuminarvi un po' sulle conseguenze del decreto finalmente che abbiamo per la parte fiscale, Equitalia, rottamazione ruolo eccetera eccetera, che è uscito ieri dopo 8 giorni dal varo della legge di stabilità, anzi legge di bilancio, di cui non abbiamo ancora il testo e di cui tra poco dovremo sapere cosa pensa l'Unione Europea. E oltre al professor Dario Stevanato che resta con noi, c'è il sindaco di Ascoli, responsabile della finanza locale dell'ANCI, Guido Castelli, a cui chiedo subito: ma voi in questa settimana siete stati coinvolti come comuni nella modifica di quel testo per quello che riguarda la possibilità di accesso dei comuni alla rottamazione? Diciamo che fra le tante qualità, se ve ne sono, di questo governo, quella del coinvolgimento non è quella che spicca di più, quindi devo dire che anche noi siamo rimasti un po' nella condizione di lasciarsi, di veder sedimentare via via le precisazioni che dalle slide fino al testo della bollinatura ci sono state poi somministrate. Quindi da questo punto di vista anche noi stiamo cercando di capire su quale testo definitivo dovrà appoggiare la nostra augusta riflessione. Ci sono delle cose che sicuramente sono convincenti, per esempio le misure contenute in questo decreto fiscale possono portare effetti anche a vantaggio dei comuni, no? Perché la rottamazione dei ruoli, ad esempio, con l'abolizione delle sanzioni estese anche alle entrate locali, può consentire in qualche caso il recupero, ad esempio, di quote che attualmente sono di incerta esigibilità. Quindi se la rottamazione produce gettito sia pure inferiore a quello atteso, ma in relazione a dei cespiti che insomma sono di dubbia esigibilità, questa è sicuramente un vantaggio anche per i comuni. Però per molti altri comuni, aspetti, soprattutto grandi, per alcune città, soprattutto nel sud, ma non solo, questo riguarda anche Roma, che hanno mantenuto nei residui attivi crediti praticamente inesigibili e non si sono messi troppo in regola con la riforma delle procedure di omologazione dei criteri di bilancio, la rottamazione potrebbe essere la necessità di svelare che quei crediti in realtà non esistono, ecco, e quindi potrebbe esserci un problema per parecchi comuni. Per carità, però se esistono comuni che ancora non si sono uniformati ai criteri del fondo crediti di dubbia esigibilità, il problema è un altro, quello di non aver ottemperato a ciò che dobbiamo dire il vero, è già legge. Ma vi bastano 30 giorni per i comuni che nel frattempo... Assolutamente no, infatti la prima cosa è questa, la seconda cosa, guardi Giannino, le dico, metà degli 8.000 comuni non sono più con Equitalia, quindi coloro i quali che già oggi utilizzano l'istituzione fiscale sono incredibilmente escluse dal beneficio della rottamazione, questa è la prima correzione che bisognerebbe fare, senza considerare che c'è anche un altro tema. Allora, chi veramente sta facendo azione di accertamento e di recupero dell'evasione anche in via volontaria molto spinto, rischia di produrre con effetto per effetto della rottamazione una ignobile e comunque abbastanza poco simpatica discriminazione fra coloro che magari hanno ottemperato a questa proposta di accertamento con adesione, ne facciamo tanti, e coloro invece che magari sono gli ultimi, i più renitenti all'obbligo fiscale, che beneficiano della rottamazione. Ci sono delle regioni in particolare, dei comuni che hanno sviluppato insomma una capacità di riscossione volontaria molto importante. Pensi un po' con quanta rabbia può trovarsi a vedere, a leggere questo testo una volta che sarà definito, il ragioniere di quel comune di Vattelapesca che ha lavorato tanto, ha cercato di convincere in nome della cosiddetta compliance fiscale i più avveduti, i contribuenti, a fare uno sforzo, e ora invece il remitente all'obbligo... Ma caro sindaco, quando ci sono i condoni è sempre così, le esigenze della sete di entrate dallo Stato purtroppo crea iniquità. Che dice professor Stevanato? Ah sì, ne avevamo parlato, mi sembra, in lunedì scorso, avevamo detto la stessa cosa. Castelli, quindi immagino voi vi muoverete sul governo come... Noi ci muoveremo perché, per esempio, ci sono delle questioni che anche formalmente non ci tornano, no, perché ripeto, ad esempio, prevedere che questa nuova Equitalia, non so come si chiamerà, questa nuova agenzia di riscossione nazionale, potrà essere anche comunque uno strumento per i comuni, è una delle possibilità in più, delle alternative in più. Ce ne dice perché un po' di quei 4.000 ricambino idea? Potrebbe succedere qualora il governo ci convincesse che effettivamente le performance di questa nuova agenzia fossero diverse e più importanti, significative e efficaci di quanto non ci abbia abituato a fare. Aspetti un secondo, cioè, vediamo di capire se il professor Stevanato ha capito. Siccome si parla di una convenzione, una nuova cosa annuale da fare con, si chiamerà Equità e Riscossione, quindi insomma non è che cambi molto questo ente pubblico economico che nasce, ma la fa con l'Agenzia delle Entrate o col MEF, questo ente pubblico economico controllato dall'Agenzia delle Entrate, professor Stevanato? Io ho capito che la nuova Agenzia delle Riscossione non è controllata dall'Agenzia delle Entrate, ma dipenderà direttamente dal MEF. Esatto. Cioè, sono tre ad oggi, se non vado errato, quindi dovrebbe diventare la quarta agenzia fiscale. Esatto, anch'io ho capito così, però naturalmente sono timoroso sempre e quindi chiedo. Quindi a quel punto è col MEF. È una trasformazione fatta attraverso modalità un po' anomale, però i rapporti poi ce l'ha col MEF. Ecco, quindi è il MEF che farà un, per così dire, un contratto concessionario con obiettivi, modalità, eccetera, eccetera. Assolutamente sì, io ho capito così. Anch'io ho capito così. E Castelli, ma in quel caso perché solo il MEF? Le autonomie perché non devono anche loro avere un... Strano a dirsi, anche perché, guardi, sia MEF o qualcun altro, il vero tema è la riforma della discussione che ancora riposa su testi del tempo di Bava Beccaris che risalgono al 1910. Perché chi, 4.000 sono i comuni che l'hanno fatto, hanno voluto uscire già da ora, sic che legibus tantibus da Equitalia, lo hanno dovuto fare con estrema difficoltà perché ancora le regole sono quelle. Quindi il vero tema è cambiare le norme sulla discussione e introdurre la prima regola aurea di cui tutti noi vorremmo avere la disponibilità, cioè? Che i soldi, una volta che vengono ricevuti, anche se c'è un riscossore esterno, passino e transitino nei conti dei comuni e non dei concessionari. Va bene. Io vi dico però che se la somma di agi interessi risparmiata è solo a tempo e non per sempre, vuol dire che allora è solo per far cassa e per chiedervi voti, altrimenti la abbattano per sempre. Grazie ai nostri due ospiti, professor Stevanato e Guido Castelli, il sindaco di Ascoli. Continuate con la 24, appuntamento con me, Alessandro Milo, domani mattina alle 8:20. Attenti noi due.